America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Beh, la settimana scorsa è stata un po' turbolenta su più fronti, soprattutto su quello di borsa. Abbiamo visto che l'indice Dow Jones ha chiuso al di sotto di quota 12.000 venerdì per la prima volta da marzo, a quota 11.951,91. E lo sfondamento al ribasso di una importante barriera psicologica. Le motivazioni le conosciamo un po', sono le stesse che si sono messe in movimento già la settimana scorsa, addirittura una decina di giorni fa, quando è uscito il dato sulla disoccupazione americana, un dato molto più brutto di quello che ci si aspettava, e dunque improvvisamente ci si è accorti che forse la ripresa non era così solida come alcuni immaginavano, e dunque si è cominciato a vendere. Aggiungiamo che fra poco finirà la manovra espansiva della Federal Reserve, quindi potrebbe anche esserci un po' di apprensione su quel fronte, anche se io personalmente sono convinto che l'aspetto lì è stato scontato completamente dal mercato. Ci sono preoccupazioni per quello che è successo in Europa, anche il Giappone reagisce male, abbiamo visto i profitti di Sony, della Toyota, che hanno sofferto molto per colpa del terremoto. Insomma, c'è un momento di pausa, di riflessione dopo una corsa straordinaria che è partita l'agosto scorso e che ha continuato a vedere un toro scatenato a Wall Street, appunto, fino a una decina di giorni fa. Ecco, io ho un ospite d'eccezione ai microfoni di America 24, Ennio Doris, presidente amministratore delegato di Mediolanum, che è a New York e in America per un roadshow, e dunque qui per andare nel cuore di Wall Street, ascoltare cosa hanno da dirgli gli analisti, gli investitori sul suo titolo, ma anche ascoltare che cosa hanno loro da dire sul mercato. Buongiorno Ennio Doris. Buongiorno dottor Platero. Come è andato intanto questo viaggio? Perché insomma in questi giorni abbiamo visto che Wall Street è un po' preoccupata. E lei come reagisce davanti a questa caduta dell'indice Dow Jones? Una correzione? Una pausa di riflessione? È sicuramente una correzione, una pausa di riflessione, ma io sono abituato a guardare le cose come fanno un po' le previsioni meteorologiche. Una volta si seguivano, diciamo, le previsioni guardando la pressione, se era più alta o più bassa e così via. Oggi con i satelliti si guarda il pianeta nel suo insieme e si vede che un tifone che c'è, per cui chi sta dentro dice mamma mia che sta succedendo, ma guardandolo dall'alto si vede che c'è un fenomeno che sta passando e che poi arriva il bel tempo. Allora questo mi ha fatto venire in mente quando una decina di anni fa circa io sono stato proprio in uno dei tanti miei viaggi a New York, sono stato a Wall Street e mi hanno regalato il berretto con scritto sopra l'indice Dow Jones 10.000 che faceva venire le vertigini, perché era una vetta che non era mai stata toccata, un limite psicologico altissimo, 10.000. Adesso il limite di 12.000 superato al ribasso diventa una flessione, e quindi bisogna riuscire ad avere la capacità di guardare un po' più lontano e di sapere che questi sono fenomeni temporanei. Però c'è qualcuno che dice che sul fronte della speculazione, per esempio, molte istituzioni americane hanno approfittato del denaro a basso costo per investire in operazioni speculative invece che dare il denaro per lo sviluppo. C'è preoccupazione per i prodotti derivati, abbiamo visto che c'è un mercato dei derivati di 600.000 miliardi addirittura. C'è preoccupazione proprio per la crescita economica, l'occupazione americana non parte. Ecco, quando lei ha incontrato gli analisti delle grandi banche americane, che cosa gli hanno detto della situazione? Che polso le hanno dato? Che idea si è fatta? Le previsioni nel breve termine sono difficili. In questo momento ho letto e tutto loro hanno confermato che c'è stata una crescita dell'1,8 nel primo trimestre negli Stati Uniti, e questa non è un tipo di crescita che crea molti posti di lavoro, quindi è difficile far scendere la percentuale di disoccupazione. Ed è evidente che non si esce dalla più grave crisi del dopoguerra in tempi molto rapidi, in maniera molto facile. Ci sono delle fasi di volatilità e questa è una di queste fasi. Quello che sta succedendo sui mercati, con chi sta approfittando, vendendo, comprando, e chi fa un mestiere professionalmente di investire, di comprare e vendere. Se noi vediamo le cose dal punto di vista di un risparmiatore che non è il suo mestiere, lui deve avere fiducia nella crescita economica che c'è sempre stata e che ci sarà, e quindi guardare le cose un po' più a lungo termine, come fa Warren Buffett, che è questo campione degli investimenti, che dice una frase famosa che io mi sono sottolineato, e dice: non chiedetemi cosa succederà sui mercati fra un anno, chiedetemi come saranno i mercati fra 10 o 20 40 anni. Parliamo della sua azienda, come è stata accolta a Wall Street? Ci sono prodotti nuovi? Ci può dare qualche idea su cosa potrà fare dal punto di vista strategico? La nostra azienda è stata accolta molto bene, perché proprio per quello che dicevo prima, noi operiamo nel settore del risparmio, nel settore bancario. Le banche, la prima banca è il Monte di Paschi di Siena italiana, nata nel 1472, e da 540 anni le banche si sono sviluppate in questo modo, sede e filiali. Nel frattempo è arrivato il motore a vapore, poi quello a scoppio, le automobili, l'elettricità, il telefono, la televisione, il telegrafo, eccetera, e c'è ancora quel tipo di organizzazione, ma con l'utilizzo dell'ultima tecnologia internet, questa sta mettendo in crisi un sistema basato su filiali sul territorio, quando i servizi possono camminare sull'etere attraverso internet, esattamente come il motore a scoppio ha messo in crisi le dirigenze. Noi ci siamo inseriti perfettamente in questo nuovo mondo, per cui siamo un'azienda, una banca che sta cavalcando le trasformazioni, e per questo siamo stati accolti molto bene. Un'ultima cosa, lei è il grande consulente per eccellenza, il vate un po' di molti risparmiatori italiani. Allora, le dico queste quattro opportunità di investimento e lei mi dica in quale ordine dà un consiglio a chi ha dei soldi e deve decidere che fare, e cioè comprare una casa, mettere i soldi in obbligazioni, metterli in azioni o tenerli in contanti. Cosa consiglia di fare oggi? Allora, io per ogni cliente darei un consiglio diverso a seconda dei suoi bisogni. Se uno non ha la casa di proprietà, certamente gli suggerirei la casa propria, mantenendosi una scorta di liquidità. Poi per gli altri investimenti, se uno ha denaro sufficiente che gli serve nel breve termine, 1, 2, 3, 4, 5 anni, deve stare lontano dal mercato azionario, e quindi le obbligazioni possono andare bene, ma con una durata che è coerente con i suoi bisogni. Per il denaro che mette via per il lungo termine, si deve avere fiducia nella crescita dell'economia, perché significa fiducia nell'essere umano. È successo così da quando è apparso su questo pianeta e continuerà a essere così. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Alice Cooper, provocatorio come sempre, vuole creare una versione rock del talent show musicale X Factor. Vorrei vedere, ha detto, un TV show, un music show che scopre un vero genio del rock. Lo vuole chiamare Lunatic Fringe. E dunque dedichiamo a lui la canzone del giorno, No More Mr. Nice Guy. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.